Radio 24. Libera la voglia di fare. Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella. Buona domenica, bentornati a Nessuna è Perfetta. Insieme a voi nel mese di luglio ripercorreremo assieme alcune dei temi che abbiamo affrontato nel corso della stagione, riproponendovi uno speciale, una sorta del meglio di Nessuna è Perfetta. Oggi riascoltiamo la puntata dedicata a Milano come nuova capitale del lavoro, la capitale del lavoro dove le donne sono in crescita, l'occupazione femminile è in crescita e così quella dei giovani. Buon ascolto! La domenica che ci vede insieme torna a concentrarsi su una città che è il motore in questo momento di tante cose. Perché? Perché Milano è la città in cui l'avanzata delle donne che lavorano sta riducendo un divario storico. Pensate, 421.000 le donne tra i 15 e i 64 che lavorano a Milano e 486.000 sono gli uomini. Il tasso di occupazione femminile è arrivato al 64,4%. Questi sono dati Istat riferiti al 2014. Dunque, se già si è fatto molto e moltissimo, perché non fare ancora di più? Questa è una puntata un po' speciale perché appunto parleremo tanto di Milano e di come Milano può diventare il polo di attrazione di una nuova potenziale crescita occupazionale per donne e per uomini. E siccome per tutta la puntata andremo su questo tema, chiudendo questa settimana con l'agente provocatore che avrà una proposta nuova, una proposta di cui non abbiamo mai parlato qui in radio, e dunque questa settimana l'agente provocatore sarà in finale di puntata, mentre ora abbiamo la nostra Sunday Girl. Benvenuta, buona domenica all'attrice Anna Foglietta. E voi direte, ma come, una romana in una puntata dedicata tutta a Milano? C'è una ragione e ce lo dice proprio lei, Anna Foglietta, che sta portando in scena nei più importanti teatri italiani lo spettacolo La pazza della porta accanto di Claudio Fava per la regia di Alessandro Gassman. La protagonista è per l'appunto una grande milanese, la poetessa dei Navigli, Alda Merini. Ma com'è una romana in versione poetessa dei Navigli, Anna Foglietta? Salve a tutti. Beh, in realtà mi sono trovata molto comoda in questi scomodi panni, perché è vero che lei è veramente la milanesità fatta donna. Non ci sono le sue poesie senza tutti quei riferimenti locali a Milano, però è vero anche che io ho cercato semplicemente di rappresentare una donna nel tutto il suo universo estremamente complesso e meraviglioso, però pur sempre una donna, e le donne non hanno, lo sappiamo bene, localizzazione, sì. Possono essere ovunque in tante altre donne, per cui ho cercato di fare questo lavoro di destrutturazione. Le ho tolto tutta quell'aura e anche quella zavorra che secondo me molto spesso diamo a questi personaggi mitologici, cercando di restituirle un'essenza che fosse un'essenza autentica e vera e corrispondente appunto con un modello di donna molto molto universale. Ecco, per tornare invece appunto alla dicotomia Milano-Roma, io ho letto che quando l'anno scorso girava a Milano il film Che vuoi che sia, quasi le dispiaceva tornare a Roma nel weekend. Perché Milano è una città in stato di grazia e Roma è una città disgraziata. È questo perché io e mio marito ci domandiamo spesso se possiamo continuare a ipotizzare un futuro nostro qui in questa città, se in questa città ci sia ancora una speranza. Siamo veramente e veramente addolorati per le sorti della nostra città. Io la amo tanto, ma non la difendo più. L'ho difesa fino a un po' di tempo fa, ora non la difendo più. Non la difendo più per come stanno andando le cose nell'amministrazione, non la difendo più per come i romani si celino e si nascondono dietro a dei falsi, false risoluzioni di grandi problemi. Io sono veramente, veramente stanca. Mentre la raccolta differenziata, faccio questo esempio perché io ho vissuto tanto a Milano e a Roma e quindi questa cosa l'ho vista con i miei occhi. Nel 1990 a Milano si è introdotta la raccolta differenziata, forse addirittura prima, ma io sono arrivata nel 90 e quindi all'inizio qualcuno ha fatto un po' di fatica, ma è subito diventato un'abitudine. Qui a Roma si fa ancora fatica a far capire qual è il contenitore marrone, quello verde, nonostante i condomini trovino in ogni condominio il cartello con le spiegazioni. Ma perché? Lo chiedo a un'attrice che ha una sensibilità. Perché secondo me il romano ha di base una forma di presunzione, ma glielo dico proprio, guardi, io una forma di presunzione, una forma di arroganza che purtroppo l'ha reso da una parte grande, nel senso conquistatori di grandi imperi, anche se ormai dietro questo grande impero che passa i 2500 anni ancora ci nascondiamo, ancora a dire che Roma è stata grande, sono passati 2500 anni, e dietro a questa cosa noi ci sentiamo ancora grandi, noi siamo portatori malati di un'eredità pesante che non ci meritiamo più. Questa è la verità. Ci sarà anche un po' di eccesso di cinismo, non solo l'arroganza, il sapere che tanto comunque tutto passa, da qui devono passare tutti i turisti, comunque ce la caveremo, c'è questa mentalità. È perché questa è ignoranza, però non è cinismo, questa è ignoranza, è mancanza di consapevolezza del potenziale di una città e pensare che possiamo e potremo continuare a vivere di rendite di qualcosa che in realtà si sta deteriorando è ignoranza. Milano ha un'ottava, forse anche di più, anche di meno, delle possibilità che ha una città come Roma, eppure sono nati tre poli museali, è nata adesso la Fondazione Feltrinelli, la Fondazione Prada, che accolgono a parte una qualità di turismo nettamente superiore e anche una quantità, cioè a livello proprio di numeri Milano sta diventando più interessante rispetto a Roma. Roma vivrà perché continuerà a vivere di turismo, ma lo fa in maniera sempre peggiore, perché il turista che vede certe cose a Roma è normale che non si fidelizza, è normale che non abbia voglia di tornarci, perché i servizi non ci sono. Un turista che deve andare a Milano e spostarsi lo può fare tranquillamente con tutti i servizi pubblici che offre l'amministrazione cittadina. Roma non lo può fare. Sabrina Ferilli, a chi le faceva notare questa differenza, dice: beh, è facile, si dice che Roma è un disastro e Milano è eccezionale. Te credo, dice la Ferilli. Milano è grande come un quartiere della capitale, come l'Eur. Vabbè, noi gestito male anche l'Eur, però guardi un po', funzionasse un quartiere grande come Milano, che almeno è l'Eur, non funziona nemmeno quello. Io abito all'Eur e le campane delle bottiglie l'ho pubblicato su Twitter, io faccio delle battaglie insieme ad Alessandro Gasman, a Michela Cescon, facciamo delle battaglie su Twitter perché siamo, non è che ne parliamo male, io dico sempre questo, come diceva poi Boris Giuliano, come diceva Mario Francese nella Fiction che ho anche fatto, la mafia uccide solo d'estate, a parlare male della propria città vuol dire amarla, parlarne bene quando la città non funziona vuol dire odiarla. Io la amo la mia città e ne parlo male perché la gente deve capire, deve sapere che un'alternativa ci deve essere, ma dobbiamo essere noi i primi ad attuarla. Un altro suo collega, Sergio Castellitto, qualche tempo fa mi disse: io quando cammino per strada e vedo un ragazzo o un anziano o di qualunque età che fa qualcosa di scorretto, butta per terra un mozzicone, butta una carta per terra, non si prende cura del suo marciapiede, mi fermo e con cortesia glielo faccio notare. Assolutamente d'accordo. Quanti di noi lo fanno? Perché ti devi anche, cioè devi mettere in conto anche di essere preso poi a cattive parole. No, ma non ce ne rendiamo neanche conto. Io penso che il problema sia quello, che non ce ne rendiamo conto, siamo talmente distratti. E allora io penso che ci sia un livello di scontento e di totale, generale, per cui le persone non sono troppo prese dai loro problemi, dalle loro vite, per cui non c'è neanche più, capito, la cosa pubblica è veramente oltre, è quasi una considerazione da privilegiati poter pensare alla cosa pubblica, perché siamo talmente tanto impegnati a vedere quello che abbiamo o che non abbiamo noi da non preoccuparci del resto, senza contare che se noi ci preoccupassimo del resto anche il nostro sarebbe molto più bello, molto più bello, con quel poco che abbiamo, ma sarebbe più bello. Questo credo che sia il concetto che lei ha trasmesso e trasmette quotidianamente ai suoi figli, ma fa anche opera di proselitismo appunto sui social media. Come le rispondono quando scrive queste cose? Ma diciamo che non mi ha mai risposto nessuno di importante, di autorevole. Mi rispondono i cittadini, che sono tutti molto arrabbiati e tutti molto solidari con quello che penso e quello che scrivo, per cui ritwittano, cioè è nata una sorta Anna Foglietta, quando io mi fermo e faccio come lei, dico a uno che ha buttato la carta per terra, per favore la raccolga, non è che tanti altri vengono e mi sostengono, cioè fanno fischiettano e se ne vanno. Allora siamo un po' anche, come dire, colpevoli del contesto nel quale ci troviamo, no? Io l'ho detto prima, li difendevo, ora non difendo più la mia città, non difendo più i miei concittadini, perché siamo totalmente colpevoli di quello che facciamo. Io abito in un quartiere di Roma dove ci sono tantissimi cassonetti in giro. Se io trovo quelli sotto casa mia, quindi vuol dire fare 3 passi che sono pieni, io faccio 5 passi, ne trovo un altro che magari è semipieno e lo butto lì. Qui non gliene importa niente a nessuno, lo trovano pieno, buttano per terra, senza considerare che quello porta sporcizia, la sporcizia porta topi, non gliene può importare di meno. E questa è la cosa che io denuncio, è questo quello che, per cui io mi arrabbio, perché dico, è vero che non passa la nettezza urbana, è vero che ci sono questi scioperi stranissimi dove scioperano tutti insieme, è vero tutto, ma è vero pure che noi romani facciamo a volte veramente pena. Grazie Anna Foglietta, grazie, buona domenica, grazie. Grazie, arrivederci. Grazie. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Nessuna è perfetta. Bentornati in questa speciale puntata di Nessuna è perfetta. Stiamo riascoltando la puntata dedicata a Milano, ai suoi vantaggi e ai punti di forza. Benvenuto e buona domenica al sindaco di Milano, Giuseppe Sala. E sindaco, questa è la terza o quarta puntata che noi dedichiamo a Milano e a quello che di buono potrebbe arrivare dagli sviluppi della situazione londinese. Se non ricordo male, proprio nella sua prima uscita ufficiale a giugno, lei disse che se Brexit non era una buona notizia per l'Europa, però poteva essere un'opportunità per Milano. Distanza di qualche mese è ancora così ottimista o le cose non stanno andando come se l'aspettava? No, è così. Innanzitutto buongiorno a tutti. No, è così. Ora abbiamo fatto un po' di analisi, abbiamo avuto alcuni incontri, stiamo lavorando su 2 fronti. Il primo è molto specifico, verificare se riusciamo a portare a Milano un'agenzia europea, stiamo parlando in particolare dell'agenzia del farmaco. La decisione verrà presa quest'anno, intorno alle vacanze, non è facile, ci sono città come Vienna e Amsterdam che sono candidate forti. Però Amsterdam ha già ottenuto molto, probabilmente tante aziende si trasferiranno lì, quindi potrebbe essere anche più generosa, no? Esattamente, allora il punto è questo, io penso che Milano riuscirà a fare, e lo stiamo facendo, insomma, un buon dossier di candidatura, diventa un tema politico e quindi al di là del mio lavoro questa cosa va portata a casa dalla politica. Certo. E anche per questo che, se mi permetto, io sono stato tra i primi a dire attenzione, non andiamo a votare troppo in fretta. Ho vissuto da sindaco i 6 mesi pre-referendum in cui era difficile portare avanti alcune iniziative che prevedevano un grande coinvolgimento del governo. Adesso, se ci rimettiamo in campagna elettorale, proprio adesso, certo, proprio adesso in cui appunto serve che ci sia un governo in carica con alcuni mesi davanti per fare le cose, e credo che la pensi come lei lo stesso ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, che potrà essere d'aiuto come il resto del governo per far ottenere l'agenzia del farmaco a Milano. È così, abbiamo avuto tra l'altro giovedì a Milano il ministro Padoan e il ministro Alfano per spiegare anche quelle che sono le opportunità, e passiamo a questo punto alla seconda macro opportunità per Milano, quelle che sono le opportunità per imprese stranieri o anche privati cittadini stranieri che intendono trasferirsi in Italia e magari nel mondo della finanza, nel mondo delle tecnologie, in particolare a Milano. Quindi benefici fiscali, quindi modalità per semplificare anche un po', diciamo, l'atterraggio della nostra città. Ci contiamo molto anche da questo punto di vista. Ecco, lei parla di benefici fiscali. Un cittadino straniero, un privato cittadino straniero, di quali benefici fiscali potrebbe avvalersi se si trasferisse, se trasferisse la residenza a Milano per un certo numero di anni, certamente, non per un anno solo? Beh, in particolare un regime di tasse fisso, per cui a prescindere dal reddito per alcuni anni paga una tassa definita e quindi una tassa certa, un tema che può essere, può dare adito ovviamente a, anche a tante discussioni, ci mancherebbe altro, però insomma sono quelle cose che o si prendono e nel medio-lungo termine il vantaggio per l'Italia c'è, oppure si può anche elegantemente lasciar perdere e se le portare a casa qualcuno. E se le porta a casa qualcun altro, certo. Esatto, rimane a qualcun altro. Rimane il fatto che, insomma, io non voglio certo augurare il male a Londra, tra l'altro Londra ha un ottimo sindaco che è Sadiq Khan, ma delle ripercussioni ci saranno senz'altro. Dobbiamo essere in grado di prendere qualcosa. Ultimo punto, a Londra vivono 300.000 italiani. Per cui è anche un invito a qualcuno che si è stabilito negli anni a Londra vedendo la terra ideale per occuparsi di un business, per fare finanza, eccetera, eccetera, magari possono considerare di tornare nel nostro paese, che non sarebbe male. Chissà, Brunello Cucinelli, che è l'altro esperto di questa nostra puntata, imprenditore che non ha bisogno di presentazioni, la sua Cucinelli sta andando ancora meglio, no, che negli anni scorsi. Mi chiedo se secondo lei, Cucinelli, Milano, che è punto di riferimento della moda e ne parleremo tra un minuto, può essere adesso anche diciamo interessante per manager internazionali di altri settori. Si trasferirebbero secondo lei? Ma guardi, io intanto le volevo dire che il sindaco è una persona per bene, è ben visto dai suoi cittadini, sta convincendo secondo me i milanesi a riprendersi in mano la cura della propria città, come dicevano i greci, no? Se il portone di casa tua, la tua città sarà pulita, la città è pulita, e credo che anche questa sua grande attenzione alle periferie mi piace moltissimo, perché è da lì che dobbiamo ripartire e rendere amabili queste periferie dove vivono il 70% degli esseri umani. E credo anche che sia un uomo dai modi garbati, guardi che non è da sottovalutare, noi adesso abbiamo bisogno di esseri umani garbati, gentili, fermi, coraggiosi e visionari, e quindi e credo che il sindaco lo sia. E se dobbiamo andare sulla città, credo che in questo momento sia molto interessante questa città, perché innanzitutto non è una grande città, è una città a dimensione d'uomo, no? Dove più o meno ci si saluta. Sta diventando una città molto contemporanea, consideri moda, arredamento, cibo, arte in genere, no? Stanno rinascendo una nuova sorta di cenacoli dove si discute. Questo è vero, Brunello Cucinelli, ma un suo manager che magari, facciamo finta, lei ruba a un concorrente internazionale, viene volentieri a Milano per pensando appunto anche a una carriera futura? Ma assolutamente questo sì, credo, non c'è nessun problema, anzi qui in questa nostra azienda ci fanno un po' le corse, no? Per andare a Milano? Io credo che negli ultimi anni Milano si sia risvegliata, no? E intanto guardi, non vi è più la nebbia, e non so, per i meno giovani come me che si ricordano di colui che andò a Portobello da Tortora perché si voleva togliere la nebbia da Milano e voleva buttare giù il passo del Turchino, 40 km di montagne, no? Però per un giovane, e noi qui ce l'abbiamo una marea, lavorare a Milano, studiare a Milano, vivere a Milano è qualche cosa di molto speciale, no? Ci fermiamo per un secondo, lo dico al sindaco di Milano Beppe Sala e a Brunello Cucinelli, e torniamo veramente tra pochissimo. Se pensate che una volta caduta Raqqa ci potremmo dimenticare dell'ISIS, e se pensate che le battaglie per i diritti di gay e lesbiche in Russia siano affar loro, questo programma non fa per voi. Sono Giampaolo Musumeci. Se invece pensate anche voi che il mondo è troppo piccolo per pensarlo ancora grande, vi aspetto qui, a Nessun Luogo è Lontano. Dal 9 luglio, tutte le domeniche, alle 19.10, su Radio 24. Nessuna è perfetta. Bentornati in questa speciale puntata di Nessuna è perfetta. Stiamo riascoltando la puntata dedicata a Milano. A proposito di studi, ecco, volevo chiedere al sindaco, secondo l'organismo che registra le iscrizioni e sovrintende alle procedure per gli studenti universitari, adesso, per tutta una serie di circostanze alle quali Brexit non è estranea, le università britanniche non sono più in cima alla lista dei desideri dei giovani europei, sono calate le iscrizioni del 7%. Lei si sentirebbe di dire, sindaco, che anche su questo fronte Milano si sta attrezzando per attrarre studenti, non dico magari britannici, ma orientali, perché vengano a studiare e non solo alla celebrata Bocconi, che da tempo fa lezioni in inglese, anche agli altri atenei milanesi? No, guarda, innanzitutto saluto e ringrazio Brunello Cucinelli, è troppo gentile nei miei confronti, ma porto a casa e va bene. Ma certo che me la sento, anche perché attualmente, sai, i corsi in inglese ci sono alla Bocconi, ma ci sono al Politecnico, ma ci sono allo IULM. Pensi che attualmente ci sono 15.000 studenti stranieri che vengono nelle 8 università milanesi, e di questo noi siamo assolutamente molto contenti. È una città che ha ancora una dimensione umana, non è grandissima, ci si muove con facilità, è piena di vita e di eventi. Però vediamo anche gli elementi negativi, perché ovviamente io... Sì, se no facciamo una visione rosa. Qual è il problema? Ed è un problema e non possiamo nascondercelo. Il problema è che a Milano negli ultimi anni si è costruito bene, anche parecchio, però su una fascia di mercato di appartamenti da 8, 9, 10 mila euro al metro quadrato. A noi manca una capacità di ospitalità residenziale per lo studente, che deve trovare un affitto adeguato, non in nero, e questo è un tema che nel nostro paese a volte, e deve essere messo in condizione di poter venire a Milano. Noi su questo stiamo lavorando. Io non lo dico solo come enunciazione politica, quando dico è finito il momento delle speculazioni immobiliari, di fatto lo è, però nei paesi europei del nord Europa ci sono sviluppi di residenzialità con rendimenti bassi ma certi, e che sono orientati a una fascia di popolazione che non ha un potere economico straordinario, ma se lo vuole creare. Berlino ha attratto giovani da tutta Europa anche con i suoi affitti bassi. È così. Senta Cucinelli, la settimana della moda, soprattutto la settimana della moda femminile, fa da polo, no, di attrazione, sì, per tanti investitori internazionali. Intanto le chiedo se la nostra settimana della moda, femminile o maschile, è ancora competitiva. Allora, io intanto le dico questo: per quello che riguarda l'uomo, quei 3 giorni prima in Firenze e 3 giorni dopo dietro in Milano, noi abbiamo costruito, dico noi italiani, la più bella manifestazione al mondo maschile. Quindi, questo per l'uomo. Per la donna, credo che forse siamo tra le prime due città al mondo, quindi è una cosa molto molto molto importante. Cioè, la competizione tra noi e Parigi, Londra e New York non sono riusciti a togliere a Milano il fascino che ha sempre avuto. Io direi che è la competizione tra noi e Parigi, onestamente. Io faccio parte anche della Camera della Moda e, discutendo con loro, mi pare di respirare questa atmosfera qui. E poi avete sentito come è bravo il sindaco? Sì. mica è facile, eh? No, non è concreto, facile. Però concreto, devo dire che una romana doc come Sabrina Ferilli ha un po' detto una cosa vera, sindaco Sala, quando ha detto governare Milano è facile, governare Roma è un'altra cosa, Milano è grande come un quartiere di Roma. È vero. Può essere, certo che le aspettative dei milanesi le garantisco che sono molto alte. Ciò mi stimola So di avere dietro una città in cui ognuno fa la sua parte, però c'è da lavorarci. Sa, a volte lo dico come battuta, ma è una verità. Sa come i milanesi normalmente salutano il sindaco? Io sono sempre in giro per la città, vado a fare la spesa, mi muovo. In un modo che fa capire la nostra mentalità. 9 su 10 mi dicono buon lavoro signor sindaco, buon lavoro. Questa è la mentalità dei milanesi. Ora i milanesi stanno tutti veramente facendo la loro parte, questo è molto importante. Ecco, tra l'altro Milano, e lo dico a Brunello Cucinelli che è stato spesso ospite di questa trasmissione proprio sul tema donne e lavoro, Milano ha un altro aspetto molto interessante. È una città dove l'occupazione è sicuramente segnala diciamo cifre molto più positive che nel resto del paese, ma è anche la città dove le nuove occupate sono 160.000 secondo gli ultimi dati Istat, 160.000 donne contro 41.000 uomini. L'ultima diciamo segnalazione a favore dell'occupazione femminile viene dal fatto che Luciana Lamorgese è appena diventata il primo prefetto donna della storia di Milano. Che cosa state facendo, sindaco, per continuare a rendere diciamo più facile il lavoro delle donne? Ma bisogna innanzitutto lavorare sulla sicurezza e sui servizi. Il tema della sicurezza è un tema, non nascondiamocelo. Quando io ho chiesto di avere più militari in città, qualcuno si è lamentato, ha detto ma come, che discorso è? Io ho detto ma guardate, la sicurezza non è un tema di sinistra se pensi alla gente che fa più fatica. E poi bisogna pensare ai servizi. A Milano devo dire sono buoni i servizi, ci si muove bene, le metropolitane funzionano. E poi bisogna dare buoni esempi, perché sa, il punto non è solamente un fatto di cifra, alle donne bisogna farle un po' comandare, perché se ci accontentiamo di leggere i numeri ma poi non arrivano mai ai vertici non funziona, per cui bisogna fare tante cose, però in questo momento io vedo che spesso a Milano le donne sono in condizioni di essere ai vertici di tante istituzioni, anche il comune. Il vice sindaco è donna, il direttore generale è donna, insomma la nostra parte stiamo cercando di farla. Diceva prima il sindaco Sala che per dare per esempio uno slancio ulteriore alle chance di Milano di ottenere l'agenzia del farmaco è assolutamente indispensabile che in questi mesi il governo sia operativo e che non ci si infili in una ennesima lunga campagna elettorale. Lei è d'accordo col sindaco Sala su questo? Ma assolutamente sì, ma guardi che adesso stiamo facendo questo grande progetto per le scuole dei mestieri, che io credo essere una cosa molto importante. Noi abbiamo fatto un esperimento qui a Solomeo che sta dando veramente grande soddisfazione, mestieri veri. È chiaro, dobbiamo ripartire da dare a certi mestieri quella dignità morale ed economica che forse avevano 30-40 anni fa. Questa è una cosa molto seria, no? Onestamente mi sembra che la città oggi, direi quasi che Sant'Ambrogio sarebbe contento della Milano di oggi. Guardi, io la vedo con un occhio particolare, dicevo prima, non gigante, di qualità, puoi discutere di tutto, politica, economia, arte. Guardi che questo non è una cosa tanto facile da trovare. Senta, sindaco Sala, nel salutarvi, salutare lei, salutare Brunello Cucinelli, il suo predecessore Pisapia sta, diciamo, dando il via a un progetto politico nuovo, ambizioso, il progetto di campo progressista insieme alla Presidente della Camera Laura Boldrini e tanti altri. E lei che progetti ha per lei stesso? No, per me stesso ho la fortuna di avere 4 anni abbondanti davanti, quindi non pensare a nessuna progettualità, non culturalmente non riesco a guardare così in là. Ciò però, unito al fatto che ormai i miei anni, ho 58 anni, mi deve far sentire libero di esprimere sempre la mia opinione, quindi io cercherò di gestire al meglio la mia città, per l'amore per la mia città, ma politicamente dirò la mia, sapendo che nessuno può pensare, ecco, ma Sala ha un'altra agenda, no? Sala ha l'agenda di fare bene il sindaco di Milano, per cui non mancherò di fare il mio richiamo soprattutto a quella sinistra che adesso arriviamo al rischio che ci facciamo del male, e quanto anche di buono è stato fatto in questi anni, perché viene totalmente dimenticato, svalutata per i nostri litigi, insomma, bisogna stare un po' attenti. Okay. L'ultima domanda per tutti e due è la stessa, prima Cucinelli e poi Sala. Se non danno l'Agenzia del Farmaco a Milano, di chi sarà colpa? Del governo o del governo locale? Questo assolutamente, guardi, non lo so, però potrei dire una cosa su Milano. Mi piacerebbe se insieme riuscissimo ad abbassare quel tasso di connessione quotidiano, e questo non vale solo per Milano, che ci rende la vita un po' pesante, che ci rende quel mal dell'anima, insieme a questa connessione, questa troppa connessione, queste troppe ore lavorative, ci rende la vita per noi stessi e per i nostri familiari leggermente più difficile. Credo che questo sia il grande lavoro, perché Milano oggi può essere considerata una grande città di riferimento mondiale. Guardi, Cucinelli, mi sa che ci arriveremo, sì, a lavorare meno, lavorare tutti, ci penseranno, come dire, le intelligenze artificiali, che toglieranno tanto lavoro agli esseri umani, gli daranno tanto tempo libero in più. Sindaco Sala, se non danno l'Agenzia del Farmaco a Milano, di chi sarà la colpa? No, è difficile dirlo, innanzitutto cerchiamo di portarcela a casa. Devo dire che la politica sta facendo la sua parte, con Gentiloni ho parlato più volte del tema ed è molto attento, ho avuto l'onore e il piacere nei giorni scorsi di essere ricevuto dal Presidente della Repubblica e anche il Presidente Mattarella mi ha promesso che farà la sua parte, insomma io li vedo belli concentrati. Dal nostro punto di vista garantisco che non ci dormiamo la notte, e per me sarebbe molto importante farlo. Se non sarà così, non ci si deprime, ne abbiamo tante di cose da fare. Grazie al sindaco di Milano Beppe Sala, grazie a Brunello Cucinelli, vi auguro buona domenica e, come dicono i cittadini milanesi al sindaco, buon lavoro. Grazie, grazie a voi, saluti grazie a lei, agli ascoltatori e a Brunello. Grazie. Grazie anche a voi. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta. Nel mese di luglio, lo sapete, stiamo ripercorrendo assieme alcuni dei temi che abbiamo affrontato nel corso della stagione, una sorta del meglio di Nessuna è perfetta. E oggi riascoltiamo insieme la puntata dedicata a Milano come nuova capitale del lavoro, la capitale del lavoro dove le donne sono in crescita, l'occupazione femminile è in crescita e così quella dei giovani. Buon ascolto! Come vi avevo preannunciato, questa domenica l'agente provocatore chiude la puntata, anche perché sarà la sua proposta, una proposta di cui non abbiamo ancora sentito parlare, che speriamo possa essere una proposta che troverà orecchie attente, sarà proprio la proposta dell'agente provocatore di questa domenica a chiudere la puntata. Questa domenica torna da noi il nostro interlocutore di Zurigo, che già in varie occasioni ha mostrato di avere molto a cuore l'idea di una Milano competitiva in chiave internazionale, il nostro agente provocatore di questa domenica, Marco Mazzucchelli, Managing Director di Julius Baer. Allora, buona domenica Mazzucchelli, io so che ci sono tre punti che possiamo sviluppare per far capire a chi ci ascolta come trarre vantaggio e su quale terreno, sul terreno che lei conosce bene, per esempio quello delle banche. Come? Buona domenica intanto. Buona domenica, grazie di avermi invitato. Sono un ognomo di Zurigo, ma soprattutto sono un milanese doc, ed è per questo che sono sempre appassionato a parlare di questo tema. Lei ha citato il fatto che Milano avrebbe la possibilità di posizionarsi per il post-Brexit. Io osservo purtroppo che sotto molti aspetti Milano è stata finora molto lenta e poco incisiva, perché sulle grandi partite, quelle per esempio dell'autorità farmaceutica, dell'EBA, l'autorità bancaria, i giochi sono molto avanzati, c'è un contesto super competitivo, rischia di diventare una specie di gioco al massacro quindi chi vincerà non è detto che ne beneficerà, e comunque Milano parte in ritardo. Allora la mia impressione è che invece dobbiamo andare oltre, cioè se vogliamo puntare a fare qualche cosa, a posizionare Milano, deve essere qualcosa che sia più utile al sistema economico e quindi poi alla società civile, che non semplicemente il prestigio di avere un'autorità. E di qui io posso parlare del mio settore. Secondo me c'è uno spunto che ci è stato offerto proprio dall'EBA recentemente in una presentazione che loro hanno fatto a Bruxelles alla European Stability Mechanism, dove il nostro connazionale Andrea Enria ha presentato una proposta sotto molti aspetti rivoluzionaria, cioè quella di creare una bad bank paneuropea, loro la chiamano una European Asset Management Company, che si dedichi in modo strutturale, sistematico, paneuropeo alla definitiva pulizia dei bilanci bancari, perché altrimenti le iniziative lasciate o allo spirito privatistico o ai singoli paesi rischiano di non produrre l'effetto desiderato. Vediamo perché Milano potrebbe essere la città ideale per diventare la sede di questa centrale europea dei crediti difficili, quelli che non si riescono a riscuotere, insomma, per farci capire. Perché Milano? Perché purtroppo in questo senso ci fa gioco un primato negativo, cioè il 25% dello stock di non performing loan europei è italiano, quindi in un certo senso abbiamo la leadership e l'esperienza intrinseca legata al fatto che forse siamo noi il principale contributore a livello aggregato, quantomeno. Cioè siamo noi quelli che hanno accumulato un sacco di crediti non esigibili in pratica. Sì. Abbiamo l'autorevolezza necessaria, no? Per gestire questa cosa. Facciamo in questo senso, speriamo a nostro favore, quella che forse è una macchia importante. Certo. Quindi prima cosa questo, per questo motivo. Seconda cosa. C'è questo aspetto, questa è un'iniziativa che sarà un'iniziativa public-private, cioè deve contribuire chiaramente il settore pubblico, ciascun paese contribuirà con una contribuzione di capitale iniziale, però ci sarà bisogno di una contribuzione di capitale privato, soprattutto ci sarà bisogno di una predisposizione di infrastrutture tipo un campus, una rete digitale d'avanguardia, supporto tecnologico, corsie preferenziali di approvazione. Il sindaco Beppe Sala dice che Milano è già molto all'avanguardia con le sue università, dal Politecnico alla Bocconi allo IULM, i corsi si tengono in inglese e questo potrebbe favorire attingere da queste università per nuove professionalità. Secondo me ci sono le condizioni per fare una lobby intelligente da parte di tutta la comunità economica, magari escludendo le banche, anzi sarebbe opportuno che stiano fuori, perché altrimenti potrebbe essere percepite come un posizionamento pro domo propria, no? Ma in realtà bisogna convogliare il fatto che Milano è credibile, affidabile, pratica e open for business. Però quello che volevo trasmettere è che questa iniziativa sarà ad alta intensità di brain power, perché ci sarà un bisogno formidabile di modo molto concentrato di cervelli che si occupano della raccolta, validazione, elaborazione di questi file, delle varie posizioni di tutte queste banche europee, per creare una data room virtuale ma super efficiente e puntuale, che sarà l'elemento di supporto per la cessione di questi portafogli poi. Perfetto, allora vengo al terzo punto, Mazzucchelli. Che tipo di professionalità servirebbero laddove questo progetto si realizzasse? Questo è un lavoro di precisione, grande contenuto informatico, capacità amministrativa di audit. C'è bisogno di manodopera non necessariamente super qualificata nel settore finanziario, ma a mio avviso molto qualificata intellettualmente, soprattutto nella predisposizione alla tecnologia e all'elaborazione informatica. Quindi ci vogliono dei cervelli giovani ma preparati, qualificati. Secondo me Milano è in assoluto in Europa la città che offre il rapporto IQ per euro più vantaggioso in assoluto. Traduca. Abbiamo dei ragazzi super preparati, non soltanto italiani, anzi non dovranno essere solo italiani per definizione, ma il costo di impiegarli è assolutamente conveniente. Quindi è la combinazione ideale in termini di costo per unità di cervello. La proposta è in questo momento sul tavolo della Commissione ed è sul tavolo della Banca Centrale Europea. Io presumo verrà discussa se si conserva un po' di questo momentum all'Ecofin di aprile. Ma la cosa più importante è che a quel punto ci sia anche di retrostante uno studio di fattibilità pratica, cioè se sono arrivate quasi non sollecitate già delle proposte, diciamo pubbliche e private, di supporto e patrocinio di un'iniziativa del genere, cioè una lobbying intelligente fatta da Milano su questa proposta, secondo me rischierebbe di risuonare molto favorevolmente e quindi si sgomberebbe il campo da chi può dire ma come si fa a fare questo, chi ci mette i soldi, dove saranno queste strutture, chi si candida a farlo. Avremo già qualcuno che l'avrà fatto in modo quasi spontaneo, mi viene da dire. Io credo che questo candiderebbe Milano in modo molto vincente, cioè, se mi consente l'ultima affermazione. Milano non è certamente la California, non è Silicon Valley. Temo di no, nonostante vogliano metterci le palme, ma è difficile che possa diventare. Non è Los Angeles, non è Hollywood, però di tutte le business cities europee è quella che secondo me ha le migliori condizioni per creare quell'effetto palcoscenico, mi perdoni, quell'effetto La La Land, ecco. Che fino ad oggi ha esercitato Londra, perché i ragazzi sono attratti da Londra, anche se finiscono poi per lavorare da Starbucks o da Caffè Nero. Allora questo sarebbe il vero spillover della Brexit, cioè passiamo dall'effetto London Calling, che era una cosa che forse la mia generazione avvertiva, a questo effetto, a questo richiamo, secondo me molto entusiasmante e molto contagioso, del palcoscenico musicale di Milano, che potremmo chiamare Milaland. Grazie per aver seguito questa puntata speciale di Nessuno è Perfetta. Abbiamo riascoltato punti di forza e vantaggi del vivere a Milano. A domenica prossima.